Tornate in diretta, 451 frammenti sonori, questa sera dedicata alle musiche contemporanee, tracce contemporanee, infatti il titolo che abbiamo dato alla trasmissione, prima trasmissione per questo 2012-2013, vero? Stagione importante, stagione importante. Perché è una stagione proprio fondamentale, direi, proprio per sublime proprio per molti versi e sublime anche per altri versi. E, tracce contemporanee, vi abbiamo lasciato con Gareth Davis, forse mi è sfuggito un Gareth Jones artista musicale, ma di altro genere, sempre valido, però che si occupa più di sonorità elettroniche, Gareth Davis e Franz Marie Witty, l'abbiamo ascoltato appunto quasi omaggiante certe atmosfere dilatate di Ligeti, probabilmente insomma quello avevano un po' in testa, anche qui quel senso quasi talmente allargato che diventa quasi anche desolante della musica del grande compositore famoso, insomma sappiamo tutti perché, quale vicenda musicale, quella del 2001 di Odissea nello spazio e appunto il lavoro del 2012, e poi un discorso che collega direttamente la Franz Marie Witty, perché prima dicevamo delle varie collaborazioni, c'è anche una grossa collaborazione, anche è una collaborazione quantomeno anche umana con Stefano Scodanibbio, un omaggio accorato che facciamo al grande compositore italiano scomparso qualche mese fa, proprio nel 2012, dovrebbe essere l'8 gennaio del 2012. E con lui scompare una delle figure probabilmente di riferimento per giovani e anche un po' meno giovani artisti legati alle musiche sperimentali contemporanee, nato appunto nel 1956, quindi insomma piuttosto giovane, anche perché proprio si arriva anche a una certa età a comporre e soprattutto a essere conosciuti in un ambito classico contemporaneo, questo classico questa sera chiaramente lo stiamo molto virgolettando, ha avuto esperienze veramente decisamente importanti, ha studiato con Fernando Grillo, quindi unendosi anche a quella componente decisamente sperimentale vicino alle musiche appunto contemporanee della Cramps, dove appunto apparteneva a Fernando Grillo, composizione con Fausto Razzi e con il grandissimo Salvatore Sciarrino, uno degli altri grandi compositori di riferimento dell'ultimo fine Novecento, e tra l'altro insomma grande anche attività come organizzatore, fonda anche e dirige la rassegna di nuova musica di Macerata, dove era proprio nato, quindi anche uno spirito insomma sempre alla ricerca di nuove strade, nuove personalità anche musicali, appunto per dare anche un approccio fresco a musiche che comunque hanno bisogno di appunto questo approccio. Sicuramente insomma Scodanibbio appartiene a quella classe, fammi passare il termine, caro. Te lo faccio passare. Grazie. No? Classe nobile, sì, sì. Perché ti stavo poi per dire nobile, di quei grandi autori sperimentali del Novecento che cercano anche nelle nuove leve e avendo le antenne ben dritte rispetto alle nuove tendenze, proprio sonorità che vadano appunto oltre anche il seminato, appunto per creare qualcosa di nuovo. In effetti il lavoro di Scodanibbio è stato in questo senso veramente alla ricerca sempre di un nuovo che comunque non era soltanto formale ma sostanziale. Citare i lavori con Terry Riley, tra l'altro insomma anche riuscendo a fare tornare insomma dopo un periodo anche piuttosto lungo di crisi il grande compositore minimalista Terry Riley, lo stesso Scodanibbio, memore di tutta la scuola minimalista, però riuscendola appunto a rapportarsi anche con quello che era la musica contemporanea d'avanguardia europea, quindi l'approccio alla musica concreta, ma anche ai grandi compositori appunto da Sciarrino, ma alla grande tra virgolette tradizione italiana di Nono, di Berio. E appunto ci lascia, noi abbiamo voluto omaggiare con questo lavoro, tra l'altro eseguito da Manuel Zarria, Voyage, veramente un grande viaggio dentro una musica che ha corde emotive anche decisamente forti, come appunto tutte le musiche di Stefano Scodanibbio. e dal grande Scodanibbio, che abbiamo anche voluto omaggiare, anche se a distanza di qualche mese dalla sua morte, ci spostiamo completamente di zona, in termini di zona geografica, e andiamo a presentare invece un artista, musicista piuttosto importante a livello soprattutto di strumentista, come violinista sudcoreana, che poi comunque ha avuto la sua crescita musicale stabilendosi in Europa, in particolare in Germania. Si tratta di un Sung Chin, che è stato oltretutto pupilla e allieva di un grandissimo compositore come Georg Ligeti. Dunque, in questo caso, seppur giovanissima, perché adesso ha soltanto 51 anni, probabilmente molto giovane, Ligeti l'avrà sicuramente seguita. Dunque anche qua ritornano, no, certi passaggi, certi legami. Abbiamo citato prima Ligeti parlando della Witty, e adesso lo andiamo a ritrovare appunto con questa autrice, Aung San Suu Kyi, che ha realizzato praticamente concretamente solo questo album per la Deutsche Grammophon, inteso proprio come album solista. Poi ovviamente la stessa musicista e strumentista lavora in vari progetti paralleli. In questo caso ha realizzato nel 2005 questo lavoro, legato chiaramente in maniera piuttosto netta alla sua formazione legata alla musica contemporanea, lavorando molto su aspetti sia elettroacustici, ma anche in alcuni momenti con l'utilizzazione di certe attrezzature e linguaggi elettronici. L'album oltretutto presenta un ensemble definito Ensemble Intercontemporane, con Kazuyo Ono, Patrick David, David Robertson e Stephen Asbury, musicisti che appunto lavorano con Aung San Suu Kyi per creare questo tipo di atmosfera estremamente particolare, che passa da momenti quasi impressionistici a livello musicale a momenti invece molto meditativi, estremamente quasi impercettibili in alcuni momenti. Il suono è estremamente basso e appena appunto udibile dall'ascoltatore, atmosfere invece molto più potenti. Abbiamo ascoltato bene questo disco, che merita sicuramente un particolare interesse e uno studio, Acrostic on Warspiel, questo è il titolo dell'album per la Deutsche, e andiamo a sentire un brano che può riassumere un po' questo aspetto legato alla contemporaneità e la contemporanea realizzata da questa artista sudcoreana. Il brano in particolare che abbiamo selezionato è la traccia Das Rätsel vor den drei Magischen Toren. Me la sono cercata, eh? Sì, infatti. Sì. Thank you. Thank you. Thank you. Beh, una cosa si deve dire su Yannis Kyriakides, che abbiamo ascoltato appunto unendola a un Sukching, che sicuramente la musica, il percorso del greco cipriota è veramente molto variegato. Probabilmente uno dei personaggi che potrebbe anche dirla, e forse per molti aspetti lo sta anche facendo, lunga su quelle che possono essere appunto le sperimentazioni e le tendenze dell'oggi con appunto quel senso prospettico legato al domani. Memorie di minimalismo, prima, insomma, non in diretta ci veniva in mente certo Terry Riley, come certo Reich, poi per molti versi un lavoro quasi jazzato, questo sax che addirittura in un punto prende anche quasi forma free, quindi anche uscendo da diciamo dalla contemporaneità bianca per approdare insomma a quelle invece jazz, del jazz più sperimentale appunto legata al New Think. E tra l'altro personaggio Kyriakides che è anche piuttosto così anche vivo nel senso di produrre e inventarsi anche situazioni musicali decisamente interessanti, come questa Unsound, dove appunto abbiamo estratto il lavoro di Antichamber, che è l'etichetta creata insieme a Andy Moore e insieme anche all'artista grafica Isabelle Vigée, tra l'altro Kyriakides molto legato anche alla sperimentazione e video, quindi tra suono e immagine, che rende insomma la faccenda altrettanto interessante rispetto al semplice tra virgolette chiaramente discorso musicale del greco poi emigrato in Gran Bretagna, ma con riferimenti anche insomma decisi anche verso la terra natia, e anche momenti appunto frequenziali che ci portavano verso certi lidi anche di un personaggio che tra l'altro è stato anche dentro all'etichetta Unsound con un disco del 2007, Robert Ashley, quindi tutta la scuola newyorkese più legata magari al teatro video oppure alle frequenze ad esempio di Niblock e di altri insomma grandi curatori del suono frequenziale, come amiamo insomma dire qua da queste parti, a 451 frammenti sonori. Quindi tenetela d'occhio sia Kyriakides che l'Unsound, etichetta appunto creata da lui, addirittura anche un disco di Andy Moore, che è uno appunto delle etichette, insieme a DJ Rapture. Sì, è molto interessante effettivamente, guardando il catalogo c'è qualcosa che stimola perché è molto variegato, e anche perché non è un catalogo neanche così vasto, perché è un decennio che sono in piedi, hanno fatto uscire qualche disco all'anno, però sono tutti molto interessanti sia per gli autori sia anche per i percorsi sonori che portano avanti, dunque potrebbe essere una indicazione giusta quella che hai fatto anche per gli ascoltatori che sono interessati a questo tipo di materiale. E a questo punto, passando da questo splendido lavoro veramente di Yannis Kyriakides, che è un nuovo autore che abbiamo inserito in 451 frammenti sonori, presentiamo anche in questo caso un nuovo autore, una nuova autrice per essere più precisi, dall'interno, forse in maniera più marcata all'interno di una certa contemporanea, tra virgolette, più classica rispetto al lavoro che abbiamo ascoltato poc'anzi. Kyriakides esce molto da certi stili o da certe dimensioni anche compositive oltre che strumentali, mentre in questo caso Olga Neuwirth, che è già da un decennio anch'essa sulla scena musicale contemporanea, si muove diciamo sicuramente più dentro un discorso più, scusate il gioco e la ripetizione, più ripetitivo e anche ovviamente più canonico. Il disco in particolare che abbiamo adesso da presentare è Klimanen Nodus Construction in Space, uscito nel 2001. L'autrice è austriaca, nata a Graz, ma ha lavorato moltissimo soprattutto in Germania e anche comunque negli Stati Uniti d'America, perché ha lavorato per alcuni anni ed è stata a San Francisco, dove ha anche studiato appunto musica contemporanea a San Francisco, oltre che a Londra e nella stessa Vienna, nella sua terra madre. Guardando anche il suo sito, notiamo che lavora soprattutto all'interno dell'Europa, in particolare tra Germania e Austria. In Italia non è mai comparsa, non so per quale motivo, ma può succedere. I lavori però appunto rimangono dentro un discorso molto potente anche a livello compositivo, perché il disco che andremo adesso a presentare, soprattutto la traccia che abbiamo selezionato, è una traccia molto potente a livello sonoro. Sicuramente c'è moltissimo riferimento rispetto ai grandi della musica contemporanea, con degli elementi anche interessanti per certe soluzioni compositive, però sicuramente siamo più dentro un discorso legato appunto alla contemporanea più classicheggiante, ma appunto volevamo dare anche questo tipo di contributo rispetto a quello che si muove negli anni zero come discorso legato alla musica contemporanea. Andiamocela a sentire dunque, Olga Neuwirth. Thank you. Olga Neuwirth, un ascolto decisamente severo quello che ci regala, per amore di dire, Olga Neuwirth. Ti picchia, se non ascolti bene, ti picchia. Beh, sì, come diceva il mio compagno di disgrazie, Eliseo Scarpa prima, sicuramente insomma un mondo accademico nella Olga Neuwirth, che noi anzi dovrebbe essere, visto che Austria, Neuwirth, così insomma abbiamo anche quell'idea. Anche un po' volendo trovare fuori degli stereotipi, che comunque c'è molta musica contemporanea tedesca, austriaca, una certa insomma seriosità anche nel lavoro. Poi questo chiaramente è anche divertente, trovare poi personaggi dentro la stessa contemporanea che hanno insomma anche rotto questa sorta anche di cappa che si erano creati molti musicisti tedeschi, senza tirar fuori altri stereotipi che insomma veramente hanno anche un po' lasciato il tempo che hanno trovato, e per fortuna, e su austriaci e tedeschi. Olga Neuwirth quindi ci riporta a un mondo, anche se vogliamo molto vicino ai primi del Novecento, questo suono è potente anche vicino a certo Stravinsky, primo Stravinsky, quello più appunto legato ha sonorità di timbriche forti, quasi in punto a voler sottolineare certe timbriche della composizione contemporanea, cambiando completamente da Olga, e l'abbiamo fatto apposta, ecco, sì, dal mondo diciamo più classico contemporaneo a quello veramente che è quasi anche difficile considerare contemporaneo per l'accezione, insieme insomma al classico, ecco. Sì, anche perché il personaggio che andiamo a presentare adesso è andata proprio a formarsi musicalmente attraverso delle sperimentazioni, ma all'interno delle musiche tradizionali. Qualcuno l'ha definita addirittura come riferimenti folk rispetto alle proprie terre. Parliamo della Sainko Namchilak, autrice nata nella sud della Siberia, che appunto ha lavorato moltissimo sulle musiche tradizionali delle zone, delle sue zone di origine, ma poi ha iniziato a studiare moltissime musiche tradizionali da tutte le parti del mondo, viaggiando moltissimo, iniziando a sperimentare, soprattutto legata all'esperimentazione dei canti, delle vocalizzazioni dei mongoli, dei sacerdoti mongoli. Canto Tuva, che a cui poi si riferiscono anche molte delle sperimentazioni, ad esempio del nostro grande Demetrio Stratos, diplofonie, triplofonie e sperimentazioni portate all'eccesso nell'uso della voce. La voce dunque come strumento, e questo è insomma anche una sorta di tributo, una sorta anche di collegamento al grande Demetrio Stratos, che a noi fa sempre piacere comunque ricordare o collegare rispetto alle sue grandi sperimentazioni. La stessa Sainko Namchilak, un famoso documentario uscito tre anni fa, proprio fu intervistata, un documentario dedicato a Stratos, e parlò moltissimo dei lavori dello stesso Demetrio Stratos, che lei stessa aveva studiato, seguito comunque nel corso degli anni. Namchilak dunque, che esce completamente dal discorso della musica contemporanea, ma ci rientra attraverso le sue sperimentazioni, in particolare con l'album che adesso andremo a presentare, uscito nel 2007, Nomad, uscito per la Leo Records, dove appunto alcuni elementi, alcuni momenti delle sue sperimentazioni vocali mixate a una sorta di linguaggio primordiale, ritmico, che poi è anche uno dei punti che ci affascinava attraverso questo tipo di costruzione della trasmissione di stasera, andare a pescare un po' dentro il discorso della musica contemporanea anche gli aspetti primordiali, ancestrali, collegati poi all'idea della contemporanea nata soprattutto esplosa nel Novecento, il Novecento delle macchine, per poi arrivare a un'idea più prospettica legata al futuro, connessa al nostro attuale presente, quella degli anni zero, cioè quella del digitale, dell'elettronico digitale portato quasi a una totale diciamo permeazione della nostra vita quotidiana, e anche dunque come linguaggio musicale. Tutto questo ci affascinava, e la Sainko effettivamente attraverso questo album condensa un po' tutti questi elementi. Ci sono anche momenti dove lavora sul piano elettronico, momenti addirittura poppeggianti dentro questo album Nomad, momenti chiaramente legati a certi canti, a certe strutture più legate alla musica tradizionale, e alcuni momenti invece che si avvicinano di più verso la nostra idea che ci siamo fatti di un'idea, di una possibilità futura connessa alla musica contemporanea, possibilità appunto di crescita, di trasformazione che potrebbe avere la musica contemporanea nei prossimi decenni. Andiamoci a sentire dunque Nomad, Sainko Namchilak. Thank you.

Pubblico entusiasta, ma d'altronde come poteva essere diversamente con Zeitkratzer, e la vogliamo voluto unire con la Sayinko Namchilak proprio perché ci piaceva questa lettura veramente molto viva, e questa è la cosa particolare che ci interessava, insomma, sottolineare questa sera, di far vivere cose che molti vorrebbero in realtà riscatolare, sì, mettere in una bacheca chiuse. Sì, appunto, museificare, bacheche appunto da museo, le mostre legate al museo folclorico, oppure renderle, sì, qualcosa di assolutamente innocuo, magari insomma legate a qualche proloco, ecco, turistiche, insomma, l'industria del forestiero qualche ancora rassegna, così estiva, sì, insomma, per dare un po' queste cose, oppure culturale, o al mare o in montagna, per dare questi momenti insomma ancora di finto legame con niente, perché insomma sono veramente delle porcate uniche, lo diciamo proprio tranquillamente, molto serenamente. Tra l'altro, appunto, anche con tutte le derive anche reazionarie che possono avere queste faccende qua. Invece con Sayinko e con Zeitkratzer si va proprio all'opposto, sia la Sayinko che Zeitkratzer, in questo caso Zeitkratzer, si occupano di musiche folcloriche, con il lavoro appunto di Zeitkratzer, Folks Music, e come? Nella maniera più incredibilmente creativa, cioè rendendo vive e facendolo appunto rivivere attraverso una esecuzione che prende l'attitudine di quella musica folclorica, e non semplicemente la mera esecuzione, che può essere anche insomma non soltanto legata appunto agli esempi che prendevamo prima, ma proprio anche proprio rivisitata, ma in una chiave appunto decisamente vitale, proprio nel senso di farla rivivere, ma anche proprio all'interno appunto di un discorso musicale che con Zeitkratzer, come d'altronde anche con la Sayinko, è decisamente puntato in avanti. Noi invece siamo puntati all'indietro, però va bene, ottica di avere una spinta maggiore per andare in avanti. E appunto ci ritraiamo per avere la spinta. Bravo, spettacolare. Similitudine incredibile, degna delle 2:15. Ecco, e così salutiamo gli ascoltatori gentilissimi che ogni volta ci preparano sempre dei piccoli manicaretti quando arriviamo. Sì, ci sono i panini col salmone, con le verdure grigliate. Sono tutti gli ascoltatori nostri che ci lasciano questi omaggi all'entrata. Cioè, che ne salame di topo, un po' però c'è, l'hai mangiato tu, contemporaneamente, sì, contemporaneamente, in contemporaneità o contemporaneamente possiamo ancora salutare, cioè dobbiamo proprio farlo insieme. Ciao, perché la trasmissione è tracce contemporanee, quindi dobbiamo fare delle tracce insieme, contemporaneamente, lasciate sui tavoli, sugli oggetti. Ma tracce con quei piedi, come facciamo con le mani? No, con le mani, mettiamo dell'inchiostro sulle mani e lasciamo delle tracce. Le tracce in radio, quella città del capo. O delle briciole anche, tipo, sai, il pollici, com'era? Il pollicino era ancora... Quello che lasciava le molliche, delle cose, guarda. Poi le molliche venivano seguite dai topi, per quello tutta sta roba qua. La salama di topo, qui non è di sugo, è di sugo. Siamo andati completamente, ma l'ottobre lascia anche queste conseguenze con questa bella umidità. Abbiamo incontrato prima due rane che stavano cercando di tornare a casa. C'era un rospo che aveva sbagliato strada, era finito su via Corticella, diceva io devo ritornare su via Santo Stefano. Uno dei posti più secchi insomma di Bologna, era già umida Bologna. Vi salutiamo, buonanotte, arrivederci, Bene, siamo a posto, ciao.